mai vederti con un dolore tra i denti, sai. Ho parole nascoste per te, d'affetto che con rime portate dal vento, dal vento. Chi sono? Sono stato fatto in tuono d'un sole di raggi di luce, per poter vedere oltre una cicatrice. In dono ho avuto l'acqua della dissolvenza, parvenza d'un mondo tutto conosciuto a priori, ma muto il mio cuore. Non sapeva più dire, ottenere calore, ore troppo ignote, senza poterti fare sapere, l'affetto mio per te, soffiato in nobili sere. Io non vorrei mai vederti con un dolore tra i denti, sai, ho parole nascoste per te, l'affetto che dico con rime, portate dal vento. Io lo so che non ci conosciamo, ma il tuo volto mi è noto, com'è strano. Sei amo alla mia anima, colto nel mare delle fortune, come salvezza alla mia totale dissolvenza, ma muto il mio cuore. Non sapeva più dire, ottenere calore, ore troppo ignote, senza poter farti sapere, l'affetto mio per te, soffiato in nobile sera. Attraverso la tua anima ho ispirato calore del mondo, sei stato ogni volta il gesto profondo della mia rinascita, e avevo solo l'immagine di vita di te nella mente, a riscaldare ogni parola d'affetto tra tutta quella gente che non sapeva di niente, ma muto il mio cuore. Non sapeva più dire, ottenere calore, ore troppo ignote, senza poter farti sapere, l'affetto mio per te, soffiato in note, soffiato in nobili sere. Io non vorrei mai vederti con un dolore tra i denti, sai, ho parole nascoste mie per te, l'affetto che dico con rime portate dal vento. Chi sono? Sono stato fatto in tuono d'un solo di raggi di luce, per poter vedere oltre una cicatrice. In dono ho avuto l'acqua della dissolvenza, parvenza d'un mondo tutto conosciuto a priori, ma muto il mio cuore. Non sapeva più dire, ottenere calore, ore troppo ignote, senza poter farti sapere, l'affetto mio è per te, soffiato in sere nobili, in sere fragili. Tu chi sei? Io lo so che non ci conosciamo, ma il tuo volto mi è noto, com'è strano, è strano. Sei l'amo alla mia anima, colto nel mare delle fortune, come salvezza alla mia totale dissolvenza, ma muto il mio cuore. Non sapeva più dire, tenere calore, ore troppe ignote, senza poter farti sapere, l'affetto mio per te soffiato in nobili sere. Io non vorrei mai vederti con un dolore tra i denti, sai, ho parole nascoste mie per te, d'affetto che dico con rime, portate dal vento, portate dal vento. Chi sono? Chi sei? Sarà, verrà. Chi sono? Chi sei? Sarà, verrà. Io non vorrei mai vederti con un dolore.